beh, l'abbiamo vissuta e la stiamo vivendo con difficoltà e disagio, difficoltà anche da un punto di vista, è stata dura organizzare questa edizione dei mondiali, dura, però ci abbiamo creduto fino in fondo e l'abbiamo voluta fare anche rispetto a quello che sta succedendo in Italia e nel mondo, per cui è un momento, come dire, che per noi serve anche per rilanciare l'ipotesi antirazzista, per rilanciare un'idea antirazzista, per rilanciare forse anche l'isola che in questo momento non c'è in Italia, perché stanno vincendo più le idee populiste, sta vincendo più il sentimento xenofobo dei porti chiusi, sta vincendo più l'idea di preservare la razza italica rispetto a contaminarsi con il resto del mondo e capire che cosa c'è anche fuori. E per cui noi viviamo i mondiali quest'anno quasi in trincea, pensando e sperando che i mondiali possano rappresentare un momento anche di rilancio per tutte queste anime disperse, gruppi che credono insomma a un ideale di apertura e di inclusione, e forse però è il caso che si uniscano veramente per capire che abbiamo di fronte a noi un nemico, mi viene da dire, un nemico forte e una opinione pubblica in maggioranza schierata sui pregiudizi, sulle paure, sulle chiusure. Quindi insomma i mondiali diventano sempre più, già lo erano in realtà, un luogo in cui persone che vedono il mondo in un modo aperto possono ritrovarsi, condividere, scambiarsi anche idee sul lavoro quotidiano, perché ricordiamo i mondiali antirazzisti si svolgono in 4 giorni, però poi le realtà che vi partecipano fanno un lavoro che è quotidiano. Il lavoro che deve essere fatto è quotidiano e molte di queste realtà lo fanno e continuano a farlo, certamente. Forse è il caso in questo momento, con questa edizione qua, di ingranare una marcia in più, di cercare di aprirsi maggiormente all'opinione pubblica, di diventare un luogo, un punto di riferimento per tutti quelli che credono che quello che stiamo sentendo in TV, alla radio, quello che sta succedendo con il nostro governo sia un incubo più che un sogno. Ecco. I mondiali antirazzisti ogni anno portano delle riflessioni che toccano temi sempre più variegati, come dire, connessi in un qualche modo allo sport e all'antirazzismo, ma che ad esempio l'anno scorso hanno avuto un grande focus sulla questione di genere. Quest'anno quali saranno i temi toccati? Quest'anno sicuramente con Gabriele Del Grande il sabato toccheremo il problema, ecco, mi viene da dire il problema Aquarius, o comunque il problema del mare Mediterraneo, del mare che dovrebbe accogliere, che bagna moltissimi paesi sia africani che europei, e che è diventato invece il mare dei muri, delle chiusure e dei morti. E con lui, che è un grande esperto da questo punto di vista, discuteremo un po' della situazione attuale, dei problemi derivanti dalle decisioni del nuovo governo e della situazione drammatica che invece c'è nei paesi da cui provengono molti dei cosiddetti richiedenti asilo.